su nuvole viola. Ed il mare luccicava da dentro. Sì, era libera e sola. Sì, stava benissimo. Sguardo di un signore elegante. Sì, era libera e sola. Sì, stava benissimo. Stava benissimo. E per te questa libera e sola allegria che ti trova se smetti di chiedere e ti sembra di essere dentro una musica. Roccia vulcanica rotolava senza mente tra gli urti. Sì, era libera e sola. Per te questa libera e sola allegria che ti trova se smetti di chiedere e ti sembra di essere dentro una musica, come una musica. E per te questa libera che ti trova se smetti di chiedere e ti sei.